Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto, a quanti si trovano nelle case, a quanti sono in viaggio. Tutti ci poniamo in ascolto, come da consuetudine ogni mese, attorno alle pagine del Vangelo di Marco. Come sapete, l'obiettivo di questo nostro appuntamento è quello di lasciarci scaldare il cuore dal racconto di Marco, che stiamo percorrendo dall'inizio alla fine, cercando di cogliere non solo la forza della narrazione di Marco, ma anche l'attualità del suo annuncio. Obiettivo della nostra trasmissione è quella di cogliere anche la portata vitale del Vangelo, in modo che il Vangelo non parli solo alla nostra testa, ma anche al cuore di ciascuno di noi. Proprio perché questo avvenga è necessario che insieme invochiamo lo Spirito Santo. Veniamo tutti sicuramente da una giornata intensa, chi dal proprio lavoro, chi magari dopo una giornata di offerta del proprio sacrificio, del proprio impegno familiare, alcuni forse anche della propria solitudine. E quindi mettersi davanti alla parola di Dio richiede sempre una risintonizzazione, in modo da centrare l'attenzione su ciò che è veramente, veramente importante. Inizio la nostra trasmissione richiamando, evocando un'immagine che ci è stata suggerita nel Vangelo di ieri. Nella pagina di ieri Gesù si presenta all'inizio come colui che si siede in mezzo ai discepoli, cioè Gesù, ci diceva il Vangelo di Giovanni ieri, si trova nel Tempio, tanta folla si reca da lui e di fronte a questa folla che si reca da lui compie un gesto, dice l'Evangelista, sedette e cominciò a insegnare. Quindi è un Gesù che di fronte ai nostri bisogni, alle nostre domande, ci dedica del tempo, si siede vicino a noi, ci accompagna e ci accompagna con la sua parola. Ecco, questa sera Gesù fa lo stesso con tutti noi, con voi e con me, si siede per spezzare la sua parola. Voi sapete che in quest'ora e mezzo che condividiamo insieme, due sono un pochino i pilastri che caratterizzano il nostro dialogo. Il primo pilastro è quello dell'ascolto, della meditazione che terrò sulla pagina di Marco. Il secondo pilastro sono le vostre domande, le vostre riflessioni. Abbiamo sempre sottolineato quanto sia importante nella nostra trasmissione questo dialogo tra il relatore e l'ascoltatore. Lo Spirito non dà luce solo a chi spezza la parola di Dio, ma anche a chi pone domande, e l'abbiamo constatato più volte, le domande sono preziose per scavare degli aspetti inediti della parola di Dio che il relatore magari si lascia sfuggire. Nella nostra lettura del Vangelo di Marco siamo arrivati ad un punto importante, siamo arrivati al momento dell'arresto di Gesù. Quindi quanti di voi sono possibilitati a farlo, chiedo di prendere un'edizione della Bibbia o anche solo del Nuovo Testamento, aprendolo al capitolo 14 del Vangelo di Marco. Questa sera leggeremo insieme 10 soli versetti, dal versetto 43 al versetto 52. Pochi versetti perché siamo in un momento cruciale della vita di Gesù, e quindi richiede un approfondimento un po' particolare. Bene, cominciamo con l'ascolto del primo episodio. Il primo episodio che viene narrato in questi versetti è praticamente la consegna di Gesù nelle mani dei soldati subito dopo la preghiera al Getsemane. Ascoltiamo il testo. Subito, mentre stava ancora parlando, sopraggiunse Giuda, uno dei 12, insieme a una folla con spade e bastoni, inviata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. colui che lo tradiva aveva dato loro un segno. Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e portatelo via con attenzione. Quando arrivò, si avvicinò subito a lui e disse: Rabbì. Poi lo baciò più volte. Essi allora misero le mani su di lui e lo arrestarono. Ecco, questi primi versetti dal 43 al 46 ci dicono il frutto della preghiera di Gesù al Getsemani. Dopo quel grande momento di preghiera con il Padre che porta Gesù a consegnarsi nelle mani del Padre, la prima conseguenza è un'altra consegna, la consegna nelle mani degli uomini ed esattamente nelle mani dei peccatori. Quindi da un lato noi abbiamo la consegna nelle mani di colui che è l'emblema della fiducia, l'emblema della fedeltà, Dio Padre. Dall'altro però il disegno di questa totale dedizione al Padre porta Gesù a una consegna totale nelle mani di chi lo odia. Quindi un amore che si manifesta in questo doppio lato della medaglia, dedizione totale al Padre, amore che si spreca totalmente fino al punto di consegnarsi nelle mani dei peccatori, nelle mani di chi lo rifiuta. L'emblema di questi peccatori a cui Gesù si consegna, paradossalmente, è uno dei dodici, è Giuda. Giuda qui rappresenta, sotto tutti i punti di vista, l'antitipo del discepolo, cioè l'antidiscepolo, colui che ha le caratteristiche proprio opposte a quelli del discepolo. Proviamo anche solo a ripercorrere i suoi gesti e le sue parole. Gesti e parole vengono qui stravolti di significato. Prima di tutto il suo avvicinarsi si traduce in un'indicazione a riconoscere colui che deve essere arrestato e allontanato, quindi è un avvicinamento che porta all'allontanamento di Gesù. Il suo bacio diventa espressione non di amore, non di accoglienza, ma di tradimento. La parola maestro diventa non un riconoscimento del suo cuore, ma un riconoscimento per chi deve arrestare Gesù. Lui che è uno dei dodici diventa ora il capofila di una folla armata con spade e bastoni, che ha il mandato preciso ricevuto dalle autorità religiose, le stesse che erano state menzionate nei capitoli precedenti. E lui, discepolo di colui che parlava ogni giorno nel Tempio, diventa la guida che agisce di nascosto la notte. Quindi vedete, in lui i tratti del discepolo vengono totalmente capovolti, tutto diventa un tradimento, al punto tale da giustificare espressioni come quelle di uno studioso famoso, uno studioso francese, Jean Delorme, che commenta così questo brano. Lui scrive: il bacio di Giuda sostituisce in questa pagina la spada. Si assiste a una violenza raffinata in cui ci si serve delle labbra e dei segni come ci si serve di una spada. Per coloro che la pervertono, aggiunge questo autore, la parola diventa uno strumento di violenza e l'equivalente di un'arma. Gesù esercita la violenza attraverso la mediazione di un segno e di una parola per arrestare colui che chiama ironicamente maestro, nel momento stesso in cui cerca di soffocargli definitivamente la parola. Cioè, Giuda lo chiama maestro, però nello stesso tempo con quella parola, con quel termine, impedirà a Gesù di essere effettivamente maestro con le parole, anche se manterrà Gesù tutta l'autorevolezza della sua vita. Quindi in Giuda c'è l'antidiscepolo, eppure è proprio nelle sue mani che Gesù si consegna, quasi a dire che quel cuore, quell'amore che si è consegnato totalmente nelle mani del Padre, ora è in grado di consegnarsi totalmente nelle mani degli uomini. Per quanto riguarda il testo che descrive questa scena, meritano di essere sottolineate alcune espressioni. Ad esempio l'espressione del bacio. Noi abbiamo tradotto dicendo che quando arrivò si avvicinò a lui e disse: Rabbì. Poi lo baciò più volte. Come mai nella nostra traduzione abbiamo reso con lo baciò più volte? Perché il termine greco utilizzato per indicare il bacio di Gesù non è il termine classico, fileo, ma è una forma intensiva, katafileo, che viene utilizzata dall'Evangelista per enfatizzare l'ipocrisia del gesto di Giuda. Da qui quella traduzione lo baciò più volte, che altri rendono anche con lo baciò teneramente. Va precisato riguardo a questo gesto che non si tratta qui del bacio affettuoso che viene dato all'uso occidentale sulla guancia o sulle labbra, assolutamente no, ma di quel bacio che esprime rispetto e stima e che era tipico dei discepoli nei confronti del maestro e che veniva dato o sulla fronte o sulla barba o sulle mani del maestro. E non è l'unico caso che noi troviamo nella scrittura. Quindi è questo il segno che viene dato. Dobbiamo un po' stare attenti anche a una certa tradizione pittorica che ha letto queste pagine secondo la mentalità occidentale. Il gesto del bacio che Giuda dà a Gesù diventa un segno per gli altri, ma è il bacio del discepolo al maestro, o dato sulle mani o dato sulla fronte. Il fatto di ripetere questo gesto è per permettere alla folla che lo segue di notte di vedere chiaramente chi è la persona che deve essere arrestata. Interessante anche la reazione, perché appena lui dà il bacio il testo continua dicendo: essi allora misero le mani su di lui e lo arrestarono, cioè individuano subito il segno e mettono le mani su di lui. E qui c'è un richiamo esplicito nel testo greco ad un altro episodio della scrittura. Al capitolo 22 del libro della Genesi, quando viene descritto l'episodio del sacrificio di Abramo, viene utilizzato nel momento in cui Isacco viene risparmiato dall'intervento dell'angelo. Viene detto chiaramente che l'angelo blocca la mano di Abramo perché non metta le mani sul figlio Isacco. Quindi laddove l'angelo Dio blocca le mani di colui che sta per sacrificare Isacco, ecco qua paradossalmente Dio non interviene per bloccare la mano degli arrestatori, non interviene per bloccare gli eventi. Quindi non interviene per rispondere alla preghiera che Gesù aveva fatto nel Getsemani: allontana da me questo calice, ma non ciò che io voglio, ma piuttosto ciò che tu vuoi. Quindi c'è una sottolineatura da parte dell'Evangelista indiretta, di questa assenza di Dio. La volta scorsa, commentando il momento della preghiera di Gesù nel Getsemani, abbiamo sottolineato come questa preghiera si concludeva con la constatazione che Dio si era fatto da parte, Dio se n'era andato, perché il figlio potesse entrare in piena libertà nel momento del dono supremo di sé. Ora, il dono supremo di sé si sta manifestando con la capacità di Gesù di donarsi anche nel momento in cui di fronte a sé c'è il tradimento massimo, quello di uno dei dodici, quindi di una delle persone che lui ha scelto, che lui ha formato, che lui ha custodito. Ecco, lasciamo ora un breve momento di stacco musicale in modo da riflettere e ritornare a leggere questi quattro versetti prima di continuare nel nostro racconto e vedere un secondo episodio che caratterizza l'arresto. Quindi il primo episodio che caratterizza l'arresto è il bacio di tradimento di Giuda, il secondo episodio è un gesto di violenza che verrà fatto contro il servo del sommo sacerdote, il terzo momento invece sarà un momento di fuga che concerne un personaggio curioso, misterioso, un giovinetto. Quindi lasciamo un breve stacco musicale in modo da ripercorrere questi quattro versetti. Ecco, dopo la scena che descrive il tradimento di Giuda, il testo continua in questo modo. Leggiamo i versetti da 47 a 50. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò una parte dell'orecchio. Gesù reagì dicendo: «Siete usciti a prendermi come contro un brigante, con spade e bastoni. Durante il giorno stavo con voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato, ma si compiano le scritture». E tutti, abbandonandolo, si diedero alla fuga. Ecco, il secondo episodio che caratterizza l'arresto accanto al tradimento di Giuda dà rilievo a questa figura anonima che colpisce il servo del sommo sacerdote, recidendogli parte dell'orecchio. Molti si sono interrogati sul significato di questo gesto. Se noi mettiamo a confronto il racconto di Marco con quello di Matteo e di Luca, notiamo che Marco dà una connotazione un pochino diversa all'episodio. Matteo, ad esempio, prende spunto dall'episodio per inserire un insegnamento di Gesù contro ogni forma di violenza. Vi leggo il testo di Matteo. Matteo dice: «Ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire?» Quindi notate la sottolineatura del Vangelo di Matteo quando riprende questo episodio è quello di sottolineare prima di tutto l'opposizione di Gesù ad ogni forma di violenza e anche l'autorevolezza di Gesù, cioè il fatto che uno intervenga con la spada fa reagire a Gesù dicendo: io mi posso difendere da solo, se volessi potrei difendermi da solo. Non è questo il modo di rispondere, il modo di rispondere è lasciare che l'amore si consegni pienamente ai peccatori. Quindi questa è la prospettiva di Matteo, diversa è la prospettiva di Luca. Se andiamo a leggere il Vangelo di Luca, capitolo 22, versetti 49-51, notiamo che Luca dà una sfumatura diversa. Scrive: «Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote, gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì». Notate, Luca sottolinea maggiormente l'aspetto misericordioso di Gesù. In Matteo non c'è la guarigione, in Luca sì. Per cui non solo Gesù si oppone alla violenza, ma addirittura tocca l'orecchio della persona colpita e compie il miracolo. Siamo agli ultimi miracoli del suo ministero pubblico, guarendo quindi l'orecchio. In Marco le cose sono diverse. Abbiamo ascoltato: uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò una parte dell'orecchio, non viene detto se era l'orecchio destro o sinistro. Gesù reagì dicendo: siete usciti a prendermi come contro un brigante, con spade e bastoni. Durante il giorno stavo con voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato, si compiano le scritture. Cioè, di fronte a quel gesto di violenza, nel Vangelo di Marco, Gesù non reagisce opponendosi direttamente a colui che ha colpito il servo del sommo sacerdote, ma interviene parlando del Tempio. Dice: siete usciti a prendermi come se io fossi contro un brigante, mentre ogni giorno stavo con voi a insegnare nel Tempio. E questo porta gli autori, coloro che studiano le scritture, a dare un significato simbolico a questo gesto. In altre parole, il gesto di colpire una parte del corpo come l'orecchio era in genere legato alla punizione che veniva inflitta ai briganti, a coloro che rubavano, soprattutto quando questa azione di brigantaggio era compiuta nei confronti di uno spazio sacro come poteva essere la sinagoga e il tempio. In epoca persiana, noi abbiamo documentazione che l'amputazione del lobo dell'orecchio era la punizione riservata ai briganti, che diventavano in questo modo pubblicamente individuabili, perché quando uno li vedeva e notava che a loro mancava una parte dell'orecchio, veniva subito identificato in questo modo. E allora sembra che Gesù, sembra che l'Evangelista, riportando questa scena, stia portando un giudizio di merito sul Tempio, sul luogo sacro. In altre parole, gli studiosi dicono, con questa scena l'Evangelista sta dicendo che effettivamente il Tempio è diventato una spelonca di ladri e di briganti, al punto tale che il servo del sommo sacerdote viene colpito e in quanto tale sarà ora individuato come un brigante, perché nella cultura del tempo porterà questo segno della mancanza, no? che richiama questo aspetto. Secondo altri studiosi invece Gesù, l'Evangelista, con questo episodio sta dicendo che è terminata e finita l'epoca del Tempio come luogo di incontro, con Dio. Perché? Perché colui che rappresenta il sommo sacerdote, quindi l'autorità religiosa per eccellenza, viene ferito. E nel primo secolo, quando una persona aveva un incarico sacro, un incarico sacerdotale, e portava con sé una ferita, non poteva portare avanti tale incarico, perché c'era qualche cosa di non più, non più completo, quindi gli era stato staccato una parte dell'orecchio, non era più degno di rappresentare il popolo davanti a Dio. Quindi colpendo il servo del sommo sacerdote viene colpita l'istituzione sacerdotale nel suo più grande rappresentante, e quindi gli studiosi dicono è finita l'epoca in cui il popolo può incontrare con Dio attraverso la mediazione del Tempio, del sacerdote. Ora l'incontro con Dio è possibile ottenerlo, averlo, passando solo attraverso il Figlio, attraverso Gesù. Nel momento in cui Gesù si consegna nelle mani del Padre al Getsemani e si consegna nelle mani dei peccatori al momento dell'arresto, lui diventa il mediatore tra Dio e l'uomo. Lui diventa colui che da un lato rappresenta tutti i peccatori che sta accogliendo a sé, ma dall'altro rappresenta anche l'amore del Padre verso questo mondo, quell'amore a cui Gesù si è consegnato totalmente. Quindi vedete il profondo significato che una lettura nel dettaglio di questo episodio può portare sul testo. Ecco, con queste due scene, la scena del tradimento di Giuda, quindi la scena del tradimento di uno dei dodici, e la scena della ferita del servo del sommo sacerdote, si chiude il ministero pubblico di Gesù. Perché diciamo che si chiude il ministero pubblico di Gesù? Perché in questa scena noi abbiamo tutti gli elementi che ci permettono un pochino di chiudere la lunga parabola esistenziale che era iniziata al capitolo 1, al versetto 14. Diversi elementi ci permettono quasi di fare il pendant tra l'inizio e la fine del ministero pubblico di Gesù. Se voi ricordate, all'inizio tutto aveva preso avvio con i discepoli che lasciarono ogni cosa per seguire Gesù. Nell'episodio, il primo episodio, quando Gesù incontra i primi quattro discepoli, viene detto che subito, lasciata ogni cosa, lo seguirono. Ecco, alla fine del ministero pubblico di Gesù cosa significa? Che tutti, abbandonatolo, si diedero alla fuga. È l'esatto opposto. Se prima avevano mostrato grande slancio nel seguirlo, ora presentano la stessa velocità nell'abbandonarlo, deludendo, in altre parole, l'ascoltatore o il lettore del Vangelo. Non solo, il ministero pubblico di Gesù era iniziato con una persona che veniva consegnata nelle mani delle autorità pagane, ed era la persona di Giovanni Battista. Il momento in cui Giovanni Battista viene consegnato è il momento in cui Gesù entra in scena e comincia a predicare. Ora, tutto termina con un'altra persona che viene consegnata alle autorità religiose e politiche, ed è la persona di Gesù. All'inizio del ministero pubblico Gesù aveva iniziato la sua predicazione sottolineando il compimento del tempo: il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. Alla fine del ministero pubblico di Gesù il maestro scandisce quasi un'esortazione, un imperativo, una preghiera che invoca il compimento delle scritture. Quindi c'è un richiamo all'elemento del compimento che richiama l'inizio. Quindi c'è un richiamo tra l'inizio e la fine. Tra l'altro, da questo momento in poi Gesù non insegnerà più nulla ai discepoli attraverso parole, non ci sarà più un contatto diretto con loro. Non ci saranno nemmeno più dei momenti di insegnamento prolungato, fatti con parabole, con discorsi. Ora ciò che parlerà in questo momento di consegna radicale, ciò che diventerà annuncio, ciò che diventerà insegnamento da parte di Gesù, sarà la sua vita. Questa vita che è consegnata totalmente nelle mani del Padre da un lato e nelle mani degli uomini, dei peccatori dall'altro. Interessante notare come di fronte a una scena del genere i discepoli reagiscono. I discepoli reagiscono praticamente uno tradendo Giuda, un altro personaggio misterioso per Matteo, Luca e Marco, ma non per Giovanni, che gli darà un nome. Secondo Giovanni, colui che colpisce per la spada è il primo tra i dodici, è Pietro, quindi uno reagisce con il tradimento, l'altro reagisce con la violenza utilizzando la spada, anche se poi questo gesto può avere un significato simbolico come quello che abbiamo illustrato, gli altri reagiscono con la fuga. È curioso, di fronte ai lati esigenti dell'amore, questi sono i rischi che noi corriamo. Il rischio che noi corriamo quando l'amore diventa esigente e ci chiede il dono pieno di noi stessi è uno di queste tre vie. O la via della fuga, per cui abbandoniamo il terreno facendo a finta di niente, o la via del tradimento, per cui scegliamo un'altra via che è opposta a quello che l'amore chiederebbe, o la via della violenza, dove cerchiamo di imporre il nostro modo di vedere le cose. Dall'altra parte invece Gesù incarna la risposta autentica dell'amore. La risposta autentica dell'amore è saper donare fino al punto da sprecare se stessi, consegnandosi nelle mani del Padre e imparando da Lui la sua misura. Certo, è un'espressione facile da commentare, ma quando si tratta di viverla, di incarnarla in prima persona, è tutta un'altra cosa. Cioè qui solo nella misura in cui uno resta in ascolto di questo maestro che si siede in mezzo a noi e condivide pienamente l'aspetto del suo amore, si riesce a interiorizzare questa logica, altrimenti diventa davvero, davvero faticoso. Pensiamo ancora una volta al Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, questo incontro tra Gesù e la donna sorpresa in flagrante adulterio. Interessante seguire il modo in cui Gesù, i gesti che Gesù compie con questa donna. Se avete notato, di fronte alle autorità religiose Gesù si alza in piedi, quindi si mette al loro pari e li sfida, di fronte alla donna invece Gesù si china. Un amore che sa stare al pari delle persone, sa chinarsi con chi è umiliato per rialzarsi, sa stare in piedi con chi vuole umiliare e accusare per sfidare, per far entrare nel cuore la corretta visione delle cose. E in entrambi i casi Gesù scrive per terra. Questo gesto, come dire, misterioso, su cui sono stati spesi fiumi di inchiostro, perché tutti vogliono capire cosa Gesù scrive per terra, ma un gesto che esprime come l'amore di Dio, che è un amore mite, silenzioso, capace di mettersi all'altezza dell'uomo, è sempre un amore capace di scrivere nei cuori e di ricordare i nostri cuori che siamo argilla, siamo terra, che lo Spirito di Dio continua a plasmare perché noi possiamo diventare creature nuove. Ora, questo modo di Gesù di consegnarsi nelle mani di Giuda prima, di consegnarsi nelle mani dei peccatori, di reagire anche a chi reagisce con la violenza, è un modo per invitare tutti a entrare in una logica altra. E allora lasciamo ancora qualche istante di stacco musicale in modo da rileggere questi versetti dal 47 al 50 prima di leggere il terzo episodio, quello del giovanetto che fugge durante questa scena. Ecco, dopo i due episodi del bacio di Giuda e del servo del sommo sacerdote che viene colpito, l'Evangelista ci racconta un terzo episodio. Sono i versetti 51-52. Lo seguiva da vicino un giovane, nudo, avvolto solo in un tessuto pregiato. Essi lo arrestarono, egli però fuggì via nudo, lasciando il tessuto pregiato nelle loro mani. Ecco, c'è questo episodio che è un episodio che viene narrato esclusivamente da Marco, noi non lo troviamo negli altri racconti della Passione, che ha suscitato diversi interrogativi in coloro che hanno commentato questo Vangelo. La prima domanda che in genere ci si pone di fronte a questo brano è: chi è questo giovane? Le risposte che sono state date sono tra le più varie. C'è chi lo ha identificato nell'Evangelista Marco e direi la cosa non è da escludere, però non ci sono indizi che ci portano a dire sicuramente era lui. Alcuni dicono Marco ha voluto qui lasciare la firma al suo Vangelo portando un racconto autobiografico. Altri ritengono che la persona in causa sia Pietro, Pietro che avrebbe cercato fino all'ultimo momento di seguire Gesù e che invece alla fine cede anche lui, quindi fuggendo come tutti gli altri. Alcuni lo identificano con Lazzaro. Chi era Lazzaro se non la persona a cui Gesù era più legato e che forse si era mischiata tra i dodici in un momento così delicato come quello dell'ultima cena e sarebbe sfuggito dalla presa, dall'arresto come tempo prima era riuscito a fuggire dalla morsa della morte. Altri lo identificano ancora con Giacomo, il futuro vescovo di Gerusalemme, parente di Gesù, non appartenente al gruppo dei dodici. Insomma, le ipotesi sono state le più diverse. Non sembra però che l'Evangelista tenga a sottolineare il nome di questo giovane, altrimenti lo avrebbe detto. Sappiamo che l'Evangelista Marco, quando è interessato a precisare l'identità delle persone, lo dice, ci ha detto il nome del cieco Bartimeo prima che Gesù arrivasse a Gerusalemme. Nel racconto della Passione dice i nomi dei figli di Simone di Cirene, che non hanno nessun ruolo nel racconto, Alessandro e Rufo. Quindi quando lui tiene a sottolineare il nome di una persona ce lo dice. Se non dice il nome di questo giovane è perché probabilmente vuole che noi ci sforziamo come lettori di cogliere in lui qualcosa di più. Ed effettivamente dal mio punto di vista questo giovane rappresenta tutti i discepoli. E non solo rappresenta tutti i discepoli, ma rappresenta Gesù stesso. Perché rappresenta Gesù e rappresenta i discepoli? Perché quello che succede a questo giovane anticipa quello che succede a Gesù. Questo tessuto pregiato in cui il giovane è avvolto, in genere viene tradotto con lenzuolo, non lo tradurrei io con lenzuolo perché il lenzuolo sembra una cosa di poco conto, invece il termine greco utilizzato per indicare questo mantello che avvolge il giovane è sindon, la sindone, per tradurre alla lettera, e indica sindone è un tessuto pregiato, un tessuto di lino, che era costoso, che apparteneva ai ceti abbienti. Quindi la sottolineatura di questo tipo di tessuto è importante. Quindi questo seguiva Gesù, avvolto dalla sindone, vogliono arrestarlo, fugge lasciando la sindone nelle mani dei suoi arrestatori. In questo senso il giovane anticipa Gesù. Cosa succederà nel mistero pasquale di passione, morte e risurrezione? La morte vuole afferrare Gesù, ma Gesù lascerà la sindone nel sepolcro e sfuggirà alla morsa della morte. E questa è un'interpretazione in parte classica, oramai classica potremmo dire, che è stata portata avanti dal cardinal Vanuat, un cardinale gesuita biblista molto conosciuto nell'ambito. Altri ritengono invece che questo giovane rappresenti tutti i discepoli. I discepoli praticamente rappresenta ognuno di noi, tutti noi ci sforziamo di seguire il Maestro di Galilea, ma arriva il momento in cui le prove dell'esistenza, le prove che il nostro cammino di fede chiede, la prova che il nostro cammino di fede richiede è quella di abbandonare l'abito che ci avvolge. E cos'è l'abito che ci avvolge? L'abito che ci avvolge rappresenta ciò che noi riteniamo prezioso per noi stessi. A volte quella preziosità sono le nostre convinzioni, le nostre certezze, i nostri sogni, i nostri desiderata. Bene, il discepolo deve essere pronto nella via della sequela a lasciare che questo abito che ci avvolge sia strappato. In un primo momento questo ci porta alla fuga, come il discepolo che fugge, ma in un secondo momento, se veramente incontriamo il Cristo e questo il crocifisso, da lui riceveremo un altro abito. Ecco perché si dice che è anticipo del discepolo, perché Marco è l'unico che ripropone questo giovane al momento della risurrezione. Se voi andate a leggere con attenzione il Vangelo di Marco, noterete che la risurrezione in Marco non viene annunciata da un angelo, ma da un giovane. Da un nianiskos, e questo è il termine con cui viene identificato questo discepolo che fugge, nianiskos, che è un termine molto raro nelle scritture. Il cosiddetto nianiskos, per utilizzare l'espressione greca, indica il giovane nell'età della scelta, nell'età in cui si fa una scelta di vita, cioè è il giovane prima del matrimonio, prima che si sposi. E questo è significativo perché davanti al mistero pasquale questo discepolo deve decidere se seguire o non seguire Gesù fino in fondo. È il momento della scelta e inizialmente questa scelta fa paura perché nel momento in cui viene afferrato e quasi rischia di vivere quello che Gesù sta vivendo, si dà alla fuga. Ma in un secondo momento questo discepolo torna sulla scena per annunciare la risurrezione di Gesù. E lo ritroviamo rivestito di una veste bianca. I padri della Chiesa hanno visto in questo episodio il richiamo di un altro episodio biblico. Non so se ad alcuni di voi ascoltatori torna in mente questo episodio biblico. È l'episodio che coinvolge il figlio di uno dei patriarchi, Giuseppe. Non è il Giuseppe di cui festeggiamo domani la festa, ma è il Giuseppe figlio di Giacobbe. Ricordate questo giovane che viene, a cui viene strappata la tunica dalle lunghe maniche, viene gettato nella cisterna, venduto ai mercanti che si recavano in Egitto, in Egitto acquista importanza e poi c'è un secondo episodio che ha ancora a che fare con la tunica di quest'uomo quando diventa un uomo importante nella casa di Potifar, la moglie di Potifar getta gli occhi su di lui, vuole andare a letto con lui, Giuseppe si rifiuta e lei le strappa di dosso la tunica, quindi una tunica che per due volte viene strappata lasciando la persona in oggetto nuda, tutte e due le volte si tratta di un percorso di umiliazione, proprio come il percorso che sta facendo Gesù. Ma quel percorso di umiliazione vissuto con Dio, di Giuseppe viene continuamente detto nel racconto della Genesi che il Signore era con lui, quindi un percorso di umiliazione vissuto con Dio alla fine porta alla esaltazione della persona, al punto tale che questa persona diventa spazio di salvezza per i suoi fratelli, per la sua famiglia, per l'umanità. Quindi questo Giuseppe che dopo essere sceso nella cisterna e dopo essere sceso nella prigione diventa punto di riferimento non solo per l'Egitto ma per la famiglia di Giacobbe e dei suoi fratelli che lo hanno tradito, offrendo a tutti loro pane da mangiare. È evidente che dietro questo episodio le generazioni cristiane vedono una prefigurazione di quello che succede a Gesù e di quello che succede a questo discepolo, cioè è vero, il discepolo deve percorrere una via di umiliazione per entrare nel mistero pasquale, deve percorrere la via della passione e della morte, ma questa via, se vissuta con il Signore, lo porta poi a sperimentare la risurrezione, a diventare un seme fecondo per i pagani e per i propri fratelli. È il mistero del martirio. I padri della Chiesa dicono, sottolineano molto questa dimensione, cioè la Chiesa è edificata sul sangue dei martiri. Laddove una persona sa donare pienamente se stessa, quel sangue donato diventa fecondo, diventa portatore di nuovi germogli di vita. Ecco, cari ascoltatori, questi sono i tre, quindi, episodi che accompagnano, che seguono immediatamente la preghiera di Gesù nel Getsemani. Da un lato l'episodio di Giuda con il suo tradimento, dove i gesti dell'amore vengono totalmente stravolti e le parole vengono totalmente stravolte. Il servo del sommo sacerdote che resta ferito, ma che dà l'occasione all'evangelista e a Gesù di fare una riflessione sul Tempio e su coloro che lo hanno ascoltato ed ora non stanno prendendo posizioni su di lui, e poi il giovane che fugge nudo. Ecco, in ognuno di questi tre episodi noi possiamo vedere quasi in riflesso noi stessi e alcune pagine della nostra sequela. Non identifichiamoci solo con il giovane che fugge nudo, che è la figura più positiva di tutte. Identifichiamoci anche nel servo del sommo sacerdote, in questo rischio che abbiamo di trasformare anche gli spazi sacri, i tempi sacri di preghiera, in spazi, come dire, dedicati a una sorta di commercio di bassa lega. Avete fatto di questo tempio una spelonca di ladri. E identifichiamoci anche con il mistero di Giuda. Quando le nostre parole, i nostri gesti sono in totale dissonanza con quello che invece il cuore sente, sperimenta ed esprime. Ovviamente al di là di queste tre figure, Giuda, il servo del sommo sacerdote, il giovane che fugge nudo, il volto in cui dobbiamo rispecchiarci di più è ovviamente quello del Signore. E qui torno ancora alla pagina della scrittura che ci ha proposto la liturgia ieri. In un passaggio della seconda lettura, Paolo cosa diceva alla comunità dei Filippi? Diceva: abbandono ogni cosa e la considero spazzatura pur di ritrovarmi in Lui. Ecco, è la pagina che abbiamo meditato insieme stasera, cari ascoltatori, ci spinge a cercare i lineamenti della nostra dignità in Cristo, in questo Gesù che sa consegnarsi totalmente al Padre e sa amare gli altri, persino i nemici, ponendosi, consegnandosi nelle loro mani. È un'eredità forte, un'eredità grande, ma che siamo in grado anche noi di vivere se restiamo uniti a Lui, se permettiamo a Lui di vivere in noi. Lasciamo ora uno spazio musicale più lungo in modo che ciascuno di voi possa intervenire. Ricordo, queste nostre riflessioni acquisiscono ricchezza nella misura in cui anche voi, ascoltatori e ascoltatrici, intervenite con le vostre domande e le vostre riflessioni. Quindi adesso tocca a voi, tocca a me restare in ascolto dei vostri quesiti. Pronto? Buonasera, pronto? Sono Francesco da Bari, mi sente? Certo, pronto? Te la sento, mi dica. Sono Francesco da Bari. Desideravo una delucidazione in merito al Vangelo di ieri, laddove viene rappresentato il Signore che scrive per terra. non è molto chiaro, cioè, cosa voleva far intendere il Signore nel mentre che scriveva sulla terra? La ringrazio, Francesco, della sua domanda. Allora, l'episodio che abbiamo ascoltato ieri durante la liturgia è stato oggetto di diverse letture. Riassumo in tre posizioni diverse, dicendo anche quella che personalmente mi convince di più. Secondo alcuni Gesù scriveva per terra i peccati degli accusatori, per cui mentre col dito scriveva, alcuni padri della Chiesa dice, e stava elencando i peccati degli accusatori, quindi dopo averli scritti si alza e dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Tutti hanno già letto i loro peccati, quindi uno dopo l'altro si ritirano nelle loro case. Questa ovviamente è un'interpretazione curiosa, simpatica, ma dal mio punto di vista poco convincente. Secondo altri, Gesù con il gesto di segnare con il dito per terra richiama l'episodio della creazione, cioè Gesù tocca la terra è ciò da cui l'uomo è stato tratto, ricordiamoci che il termine stesso Adamo deriva da Adam che indica la terra, quindi toccando la terra Gesù ricorda a tutti la fragilità che ci tocca, che ci rende tutti simili. Quegli scribi e quei farisei hanno gettato in mezzo al tempio quella donna come se fosse un panno sporco. Parlano di lei ma non parlano a lei, non si rivolgono a lei, quindi le hanno strappato la dignità. Ecco, Gesù scrivendo per terra ricorda ad ogni uomo che è fragile, ognuno di noi è impastato di fragilità, di terra, e quindi nessuno deve permettersi di strappare la dignità a un'altra persona. E questa interpretazione, dal mio punto di vista, è abbastanza convincente. Poi c'è una terza linea di lettura, secondo la quale Gesù, scrivendo per terra, richiama un'espressione spesso evocata dai profeti, dove viene pensato, dove viene illustrata l'immagine di Dio come quella di un padre che scrive nel cuore dei figli, cioè l'amore di Dio è un amore che sa incidere nel cuore, anche nei cuori più duri, riplasmandoli come ha plasmato il primo uomo nella creazione. Quindi il gesto indica praticamente, indicherebbe l'azione con cui Gesù sta rompendo quel guscio di sicurezza che caratterizza gli scribi e i farisei, un guscio di sicurezza che effettivamente verrà alla fine sconfitto, perché uno dopo l'altro se ne tornano tutti a casa, cominciando dai più anziani. Quindi questi sono un pochino le tre linee di lettura, no, di quel gesto. La cosa più bella però accanto al gesto di Gesù di scrivere per terra è quello che evocavo, sono le posizioni di Gesù. È molto bello contemplare, no? Gesù davanti alla folla che ha sete di lui cosa fa? Si siede, e questo sedersi di Gesù indica proprio il suo desiderio di darci del tempo, di mettersi a parlare con noi, di mettersi alla nostra misura, si siede per stare con noi, per fare il maestro, che è il ruolo con cui è riconosciuto, Rabbì. Poi però di fronte a quella scena dove questa donna viene gettata proprio in mezzo alla scena, Gesù lascia il punto dove è seduto e si china, quasi a non far sentire sola questa donna a cui gli uomini hanno strappato la dignità, e quasi anche a invitare le autorità religiose a chinare lo sguardo, a cambiare posizione. Poi, visto che questi insistono, cosa fa? Si alza, vale a dire di sfida. Poi si china di nuovo, ancora per far capire a questa donna che non è da sola. E alla fine, quando rimane lui e la donna da soli, cosa fa? Si alza, ma questa volta per invitare la stessa donna a alzarsi. E diversamente dagli scribi e dai farisei che parlano della donna accusandola, Gesù parla alla donna e la chiama proprio donna. Dove sono? Cioè, quel termine, rivolgersi all'adultera chiamandola donna, è un modo per restituire la dignità, quasi per tutelare quello che è successo, per poi rimetterla in piedi e dire va, ed ora in poi non peccare più. Qui c'è proprio la fotografia di quello che il Santo Padre all'Angelus di ieri ci invitava a riflettere, questo Dio che non si stanca mai di perdonarci, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, siamo noi che ci stanchiamo di ricominciare. Ecco, Dio non si stanca mai di ricominciare, siamo noi che spesso siamo, come dire, delusi, depressi e quindi non abbiamo quello slancio per ricominciare. Grazie Francesco per la tua domanda. Pronto? Sì, buonasera. Con chi parlo? Gianni mi chiamo. Mi dica sono Gianni. Sono un vecchio di 77 anni. Dunque, volevo dirle questo. È vecchia, una storia vecchia di 2000 anni. Giuda, si potrebbero scrivere libri, sono stati scritti, conferenze, compagnia bella, ma questo enigma, questo spaventoso problema di Giuda rimane un problema. In altre parole, lei sa benissimo cosa sto per dirle, ed è questo. Ci voleva un Giuda, è stato scritto, detto mille volte. E secondo punto, colpa ne aveva se era nato così. Terzo, le cose come sarebbero andate se non ci fosse stato. Quindi è una figura drammatica, enigmatica, pentita. Avrebbe tutte le caratteristiche di uno di noi, quella fetta di noi che c'è di Giuda, io per primo. E perché? Non dico segnato dal destino, perché io, grazie a Dio, credo che con la libera volontà noi il destino lo modifichiamo come il Signore desidera, quindi lasciamo perdere sciocchezze. Però ci voleva, sto qui, io in un certo senso voglio bene a Giuda, devo voler bene a questa fetta di Giuda che è in me. Ecco, è tutta qui la mia domanda. So che è difficile rispondere, ma in poche parole, se possibile, avere una speranza, diciamo. Certo, la ringrazio, signor Gianni, per questo suo intervento che mette a fuoco proprio uno dei personaggi su cui abbiamo riflettuto insieme. Effettivamente Giuda è una figura molto enigmatica, lo capiamo anche da come la sua figura viene ripresa dagli altri evangelisti, basta vedere il modo in cui lo riprende Luca sia nel Vangelo che negli Atti degli Apostoli, con un giudizio sferzante su di lui. Negli Atti degli Apostoli Luca descrive, sembra quasi enfatizzare la morte di quest'uomo, catalogandolo senza diritto d'appello nel gruppo degli empi. Ancora più duro è l'Evangelista Giovanni. Nell'Evangelista Giovanni Giuda è il ladro, è l'uomo delle tenebre, è l'uomo di cui il demonio prende possesso. Sono giudizi sferzanti, è un modo da parte anche della prima comunità cristiana di rileggere un episodio che resta come una ferita aperta dentro la prima comunità. Diversa invece è la posizione di Marco. Questo Vangelo che noi stiamo commentando, se voi notate, certo, fa dei giudizi di merito su Giuda, ma lo presenta sempre come uno dei dodici. Addirittura prima del tradimento è difficile, se noi non sapessimo la storia, sarebbe difficile individuare anche di che si tratta, di chi si tratta, perché l'obiettivo dell'evangelista è farci capire che tutti noi possiamo essere nella categoria di Giuda, nel senso che tutti noi possiamo in qualche modo tradire la persona che ci vuole più bene al mondo per dei motivi misteriosi, perché alla fine non riusciamo a capire perché Giuda tradisca il maestro, non certo per denaro, perché vediamo che il denaro che contratta per il tradimento è un denaro, è una cifra molto irrisoria, non certo per rivendicare qualcosa di personale, perché non sembra rivendicare niente da un punto di vista personale, alcuni l'hanno interpretato come un modo per obbligare in qualche modo Gesù a manifestare chi era in modo più convinto, in modo più deciso, quasi a forzare l'adesione a lui, però ecco, dietro di lui resta il mistero, che cosa ha prodotto questo tradimento. Ecco, io non capirò, mi veniva in mente anche uno dei dei commenti che Benedetto XVI fece dopo che incontrò il suo maggiordomo prima delle dimissioni, quando, parlando un po' degli ultimi periodi difficilissimi della sua vita, disse: io, per me resta un mistero quello che è successo, non capirò mai il motivo di quel tradimento. È difficile capire il motivo del tradimento. Personalmente riterrei illuminanti due letture che sono state fatte di questa figura. La prima è di un grande, so che è in atto il processo di beatificazione, ed è Primo Mazzolari. Primo Mazzolari, quando riflette sulla figura di Giuda, sottolinea questa figura come una figura cui lui dice: io voglio bene anche a Giuda, Giuda lo sento mio fratello, perché quest'uomo che ha avuto il grosso limite di cadere nella disperazione e di suicidarsi per disperazione, quest'uomo Gesù l'ha chiamato fino alla fine amico. È nel Vangelo di Matteo che questo succede, e quella parola amico, dice Primo Mazzolari, io non posso non credere che lentamente abbia scavato il suo cuore, e magari anche nell'ultimo istante, nel momento in cui lui si butta dall'albero per morire strozzato, per morire impiccato, nell'ultimo istante quella parola abbia fatto colpo nel suo cuore. E si spinge ancora più in là Primo Mazzolari dicendo: e chissà, magari è stata proprio la prima persona che Gesù ha portato con sé nel paradiso, lui e il ladrone, certo, uno alla destra e uno alla sinistra, due persone che non gli facevano certo onore per il suo ingresso in paradiso, perché uno era un brigante, l'altro era un traditore, ma forse è proprio questo che ci dice la misericordia di Dio, una misericordia che si sa consegnare a tutti fino all'ultimo traditore. Un'altra, la seconda invece interpretazione che mi convince è quella di un autore protestante, Karl Barth, che nella sua dogmatica ecclesiale a un certo punto riflette sulla figura dell'Apostolo Paolo, e lui dice: la Chiesa delle origini, negli Atti degli Apostoli, si nota che ha paura di Giuda, lo vuole cancellare. Giuda rappresenta una macchia nella sua storia e lo vuole cancellare, e chiede che questa macchia sia cancellata attraverso l'elezione di un altro, e l'altro che verrà eletto sarà Mattia. Mattia deve ricoprire il posto lasciato vuoto da Giuda. Mattia deve ricoprire una macchia lasciata da Giuda. E poi Barth continua nella sua riflessione dicendo: ma poi lo Spirito ride di questi stratagemmi umani, perché lo Spirito deciderà di partire nuovamente da una persona che ha la carta d'identità sporcata di sangue, e questa persona è Paolo. Lui dice: laddove la comunità cristiana vuole coprire una macchia di sangue, lo Spirito riparte da un altro che ha una macchia di sangue sulla sua carta d'identità. Paolo, quello che perseguitava la prima comunità cristiana, diventerà il grande apostolo che farà transitare la Chiesa fuori dai confini del giudaismo. E Barth si spinge ancora più in là dicendo: Paolo non è altro che colui che continua la missione laddove Giuda l'ha interrotta. Giuda si è sporcato le mani con il sangue innocente, e l'hanno voluto cancellare dalla storia cristiana. Allora lo Spirito suscita un altro che si è sporcato le mani con sangue innocente, Paolo, mostrando come lo Spirito, l'azione del risorto, può cambiare le persone. Ecco perché anche la prima lettura su questo sfondo, cioè quella di Primo Mazzolari, diventa in qualche modo plausibile, cioè lo Spirito ha la forza di entrare in ciascuno di noi, a nessuno è permesso di giudicare o strappare la dignità di una persona, perché nessuno sa cosa succede negli ultimi istanti di vita, nessuno sa il filo che lo Spirito, che il Signore tesse nel cuore di ogni sua creatura. Grazie quindi Gianni per questa sua domanda, che come vede ci ha fatto scavare ulteriormente il significato del testo di Marco. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera Don Giacomo, sono Vincenzo, chiamo da Napoli. Benissimo, Vincenzo. Volevo chiederle un chiarimento. Io diciamo sto seguendo i suoi corsi, no? E anche in questo periodo di Quaresima mi rendo conto che di una lacuna che probabilmente non è soltanto mia. Cioè, voglio dire, noi conosciamo bene, no, la storia di Gesù, la sua passione, eccetera. Però quando poi andiamo nel succo del discorso, no, e ci andiamo a chiedere ma perché Gesù è morto, no? Per esempio molte persone bussano alla porta e dicono Gesù è morto per noi, ma andando ad analizzare questa frase mi sono reso conto, ecco, che della mia ignoranza, ma anche dell'ignoranza di molte persone che vivono la mia stessa fede. Anche perché recentemente ho letto, no, degli articoli di un biblista cattolico che in pratica diceva ma Gesù non è che ci ha liberati dalla morte, perché in realtà lo Sheol, l'Hades, faceva parte della cultura ebraica, ma l'uomo già prima della venuta di Gesù con la sua morte entrava direttamente nella vita divina, quindi Gesù fondamentalmente ci è venuto a rivelare quello che già veniva prima. E questo mi sembra un pochino riduttivo, no? Quindi volevo capire meglio se lei poteva darmi questa delucidazione. Quindi cosa ha comportato per noi la morte di Gesù e se realmente già prima della sua venuta si andava direttamente al cospetto del Padre. La ringrazio e la... Allora, grazie di cuore Vincenzo per questa domanda, la tua domanda è una domanda grandissima, enorme. Ecco, io spero di riuscire a esprimermi chiaramente e con semplicità su un interrogativo che in ambito teologico, dogmatico, ha un peso enorme, quindi spero anche di non sfocare la riflessione. L'immagine che io utilizzerei per rispondere alla domanda ma perché Gesù è morto, è l'immagine delle esperienze che l'uomo può vivere. Ecco, proviamo a metterci di fronte a tutte le esperienze che un uomo può vivere nella sua vita, no? Un uomo vive esperienze di malattia, esperienze di salute, esperienze di gioia, vive esperienze di peccato, esperienze di lontananza da Dio, esperienze di disperazione, di buio totale, di solitudine, di violenza. Ecco, se noi percorriamo il ministero di Gesù, che culmina nella passione morte, nella sua passione morte, notiamo che non c'è esperienza che Gesù non abbia sperimentato. Tutte quelle esperienze di violenza, di insulto, di false accusa, di abbandono e di solitudine. Teniamo presente, lo vedremo quando arriveremo nel cuore del racconto della passione secondo Marco. Marco mostra proprio la solitudine abissale di Gesù. Gesù si trova a un certo punto senza nessun discepolo, solo in Marco, senza quasi la solidarietà della creazione, quel buio che lo avvolge, senza la percezione della vicinanza del Padre, Dio mio perché mi ha abbandonato, cioè raggiunge i bassi fondi dell'esperienza umana. Ora, questi bassi fondi dell'esperienza umana trovano il vertice nella morte. La morte è l'esperienza di cui tutti noi abbiamo più paura. Certo, magari qualcuno con un cammino spirituale serio riesce a fare come San Francesco, a chiamare la morte sorella, ma chi non ha paura di morire? Oppure la morte viene invocata quando uno non ne può più, dal dolore, dalla disperazione, ma chi non ha paura di morire? Ora, Gesù abitando tutte queste esperienze, abitando anche l'esperienza della morte, lasciandosi deporre nel sepolcro, ci dice che tutte queste esperienze non sono più solo esperienze umane, ma sono esperienze divine, che Dio abita, e abitandole le può trasfigurare. In altre parole, Gesù abitando tutti questi momenti ci fa capire che noi non siamo soli, mai. E anche lì, che, dove l'uomo si sente più solo, perché l'esperienza della morte è un'esperienza anche enorme di solitudine, perché siamo soli davanti a un passo così enorme, Gesù ci dice che non siamo soli. E attenzione, il nostro credo non si limita a dire che Gesù patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Aggiunge, dice, discese agli inferi. Quindi questo processo di spogliazione, di abbassamento, nel termine tecnico si dice di kenosi, di abbassamento di Dio, del figlio di Dio, raggiunge il suo compimento solo nella discesa agli inferi. Quasi a dire che nemmeno gli inferi sono un luogo estraneo a Gesù, cioè fino all'ultimo Gesù scende per strapparci, per portarci con sé. Poi, cosa si credeva nel primo secolo in merito ai morti? In merito ai morti c'erano diverse posizioni. Voi sapete che è attestato nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, i farisei e i sadducei dibattevano tra di loro. I farisei credevano nella risurrezione. E allora per i farisei possiamo dire che valeva quanto scritto nel libro della Sapienza: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà, è uno dei testi che viene spesso letto, no, nei riti funebri. Quindi questo ci dice che c'era, almeno in alcuni gruppi, la percezione che la vita non poteva finire, che i giusti in qualche modo erano custoditi da Dio, dove, come non era chiaro, però c'era questa percezione. Ma c'erano altri gruppi, e noi sappiamo i sadducei, che non credevano a questo, tanto vero che dibattevano con i farisei. Ricordate l'episodio di quella famosa donna che ha avuto 7 mariti? Questo episodio viene raccontato dai sadducei per deridere coloro che credevano nella risurrezione dei morti, e i sadducei non erano un gruppo secondario, erano un gruppo di riferimento per il popolo, eppure non credevano nella risurrezione. Quindi c'erano due posizioni diverse. Certo, la percezione della risurrezione, così come ci viene dalla fede cristiana, sicuramente non c'era. La fede cristiana porta un grande innovamento su questo, una grande innovazione su questo, tanto vero che all'inizio era un punto debole dell'annuncio cristiano, perché su questo aspetto gli stessi ascoltatori di Paolo ad Atene, il testo dice, quando sentirono parlare di risurrezione, gli dissero: oh, su questo ci sentiremo un'altra volta, cioè screditano subito Paolo. La novità cristiana sta nel sottolineare che tutto ciò che l'uomo vive, sperimenta nella vita, non finisce, ma viene avvolto nel mistero di Dio, viene trasfigurato nel mistero di Dio. Quindi tutto quello che noi siamo nella nostra corporeità e nel nostro essere, e qui corporeità va intesa a 360 gradi, cioè non è solo la nostra carne fisica, no? Ma è il nostro tessere rapporti, sono le nostre relazioni, le nostre amicizie, tutto quello che caratterizza la nostra vita, che ci identifica nella nostra vita, tutto questo risorge. Vincenzo, per rispondere alla tua domanda, no? Ognuno di noi è quello che è perché nella vita incontra dei genitori di un certo tipo, dei fratelli e delle sorelle di un certo tipo, degli amici di un certo tipo, Quindi tutte queste relazioni, le amicizie, i genitori, la famiglia, le esperienze che facciamo, ci costruiscono per quello che noi siamo oggi e per ciò che ci rende diversi gli uni dagli altri. Bene, la fede nella risurrezione ci dice che tutto questo risorge con noi, tutto ciò che c'è di buono, di bello, che costruisce il nostro essere, farà parte del nostro mistero di risurrezione, sarà trasfigurato e durerà in eterno. Il bene non muore. Ecco, l'esperienza della morte di Gesù fa capire all'uomo che non c'è esperienza negativa in lui che non possa diventare esperienza di bene. L'importante è non viverla da sola, ma viverla con lui. Se il Signore è con noi, tutto ciò che noi viviamo può essere trasfigurato. Anche qua sono cose che sono facili da dirsi, quando si tratta di viverle è un po' più faticoso. Però, ecco, aiutandoci a ricordarle l'un l'altro, possono veramente diventare motivi di speranza e schiudere quel grande mistero della Pasqua che ogni anno celebriamo. Quindi grazie davvero Vincenzo per questo tuo intervento, questo tuo interrogativo. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, io sono Salvatore dalla Sicilia. Benissimo, Salvatore. Le vorrei fare una domanda sull'episodio della donna adultera, lei l'ha trattato sì. Poco fa. E l'altro giorno, ascoltando alla Radio Vaticana il commento del biblista della radio, ho sentito dire da parte del biblista che Gesù assolve la donna. In effetti, alla fine dell'episodio, Gesù dice: neppure io ti condanno. Non solo, ma vai e non peccare più. Ora, da un punto di vista squisitamente esegetico, secondo lei, l'espressione io non ti condanno la possiamo ritenere equivalente all'espressione io ti assolvo oppure no? Questa è la domanda. Grazie Salvatore. Allora, prendo l'occasione per far notare agli ascoltatori come tutti quelli che intervengono provengono dal sud, Bari, Napoli, la Sicilia. Vedete un po' come questi ascoltatori sono bravi, sono in gamba. Nel mondo antico le persone più in gamba sono quelle che sanno fare più domande e quindi invito gli altri ascoltatori a intervenire di più. Quindi grazie a voi, no, che ponete domande. Allora, la domanda che viene da Salvatore dice: le espressioni che abbiamo ascoltato ieri nel Vangelo possono essere considerate come un'assoluzione? Allora Salvatore, io ti invito a riflettere un altro sul significato della assoluzione. Cosa significa la parola assolvo, assoluzione? Significa sciogliere, rendere una persona libera. Quella donna, dicevo prima, viene gettata nel tempio come un panno sporco. Quella donna è una donna prigioniera, è una donna prigioniera di quelli che l'accusano, di quelli che dicono che l'hanno presa in flagrante adulterio, quindi bastava la testimonianza di due persone, la prima lettura di oggi, no, per accusare una persona. Qua c'è uno stuolo di farisei e di scribi che l'accusano. Ecco, alla fine Gesù cosa fa? Restituisce la dignità a questa donna, la invita ad alzarsi in piedi e ad andare, senza dare nessuna condanna, e la invita a non peccare più, quindi riconosce indirettamente che questa donna ha peccato, però la invita ad alzarsi e ad andarsene, senza nessuna forma di condanna. In altre parole, Gesù scioglie questa donna dalla prigionia del giudizio umano, dalla prigionia degli occhi puntati su di lei, dalla prigionia di una minaccia di morte, una minaccia di morte dalla prigionia della legge, per rimetterla in piedi, per restituirle la sua dignità di donna. Noi non sappiamo se questa donna poi ha continuato a peccare o ha lasciato la sua vita, no? Questo all'Evangelista non interessa. All'Evangelista interessa dimostrare come Gesù, quando incontra le persone, le rimette in piedi e le restituisce la libertà, restituisce loro la libertà. In questo senso l'episodio è una vera e propria assoluzione. In fondo guardiamo anche i nostri momenti di riconciliazione, no? Quando ci alziamo dal confessionale, noi abbiamo ritrovato la nostra dignità, abbiamo ritrovato la nostra libertà dal peccato. Il dopo non sappiamo come andrà, però cosa succede in quel momento sacramentale? Lo Spirito ci dona la libertà di accogliere o anche respingere l'amore di Dio, ma ci rimette in piedi, ci investe della sua grazia restituendoci la dignità dei figli. Ecco, Gesù a quella donna ha restituito la dignità dei figli che i farisei e gli scribi avevano schiacciato. Quindi direi proprio di sì, Salvatore, risponderei positivamente alla tua domanda. Grazie del tuo interrogativo. Pronto? Pronto, buonasera. Io sono Francesca da Genova e volevo fare presentare una mia perplessità. Ho sentito una catechesi tempo fa che si parlava di Giuda in quanto la sua colpa maggiore è stata quella della disperazione, di non aver fiducia nella speranza in Dio, ecco, nel perdono. Ecco, poi riflettendo sul Vangelo della crocifissione, quando Gesù avrebbe detto Dio, Dio, perché mi hai abbandonato, allora mi prende un po' uno sconvolgimento dire come fa lui, figlio di Dio, che sapeva a cosa andava incontro, avere questo attimo di disperazione, ecco. Allora, grazie Francesca, vedete che dopo l'appello Genova ha subito risposto, quindi ha risposto subito anche il Nord. Francesca pone la nostra attenzione sul mistero dell'abbandono di Dio, no? E si chiedeva, ecco, com'è possibile da parte di Gesù, che sapeva tutto, sperimentare in modo così radicale l'abbandono di Dio. Anche questa è una domanda grossa, dai risvolti teologici e dogmatici molto forti, quindi spero anche qua con il commento di avere il giusto equilibrio. Mi soffermo sul Vangelo di Marco, che stiamo commentando. Allora, nel Vangelo di Marco, più che negli altri Vangeli, evolutamente direi rispetto agli altri Vangeli, viene sottolineata la solitudine di Gesù, una solitudine che inizia, come abbiamo visto la volta scorsa, nel Getsemani, quando Gesù, tornando la terza volta dai discepoli, non dice basta, questa è la nostra traduzione, ma dice se n'è andato, cioè il Padre mi ha lasciato solo. E il compimento di questo abbandono di Dio sperimentato da Gesù avviene nella croce con quel grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido che diventa particolarmente drammatico anche nel modo in cui viene espresso. Gesù chiama il Padre Dio, cosa molto rara, si è sempre rivolto a lui chiamandolo Padre, ma non chiamandolo Dio. Si rivolge al Padre dicendo Dio mio, cioè è quasi un'invocazione, perché il Padre entra in scena. La sua espressione di preghiera è un grido forte, un grido lacerante, il che richiama, non dico la disperazione, però il profondo dolore che abita il suo cuore. Ulteriormente è un altro elemento che enfatizza questa espressione, il fatto che viene riportata in due lingue, viene riportata in aramaico e nella traduzione dell'Evangelista, per noi è il greco, per coloro che ascoltavano, ecco, sentono in aramaico, quindi due volte, in due lingue, quasi a enfatizzare la cosa, cioè l'Evangelista vuole sottolineare davanti all'ascoltatore il momento tragico che Gesù sta vivendo. Com'è possibile questo? È possibile nella misura in cui l'amore di Dio deve raggiungere il punto del compito, l'amore di Gesù deve raggiungere l'espressione massima, cioè perché il Figlio doni totalmente se stesso fino all'ultimo, l'ultima goccia della sua vita, del suo sangue, è necessario che il Padre si ritragga, perché un domani nessuno abbia a dire sì, ma per Gesù era diverso, il Padre era con sé, lo percepiva vicino, invece no, in quel momento Gesù è totalmente privato della vicinanza del Padre, entra nella cosiddetta notte oscura, questa espressione che accompagna anche le esperienze, il cammino mistico di grandi santi, no? I grandi santi che hanno segnato la storia, fateci caso, hanno tutti sperimentato la notte oscura, cioè il momento dell'abbandono di Dio. Ovviamente Dio non è che Dio non c'è più, però toglie ogni elemento sensibile che permette di percepire la sua presenza. È l'esperienza che ha fatto Giovanni della Croce, è l'esperienza che ha fatto San Francesco, è l'esperienza che ha fatto Madre Teresa di Calcutta, e dietro di loro, ecco, l'elenco potrebbe essere lungo, lungo, ma è quell'esperienza che permette di entrare in sintonia con quegli angoli di umanità che sono gli angoli della disperazione che Dio vuole continuare ad abitare. Non c'è niente che non abbia sperimentato il Signore, perché tutto doveva essere redento da quel sangue. Quindi quell'esperienza profonda di desolazione che Marco, su cui Marco insiste, che Marco sottolinea in modo particolare, ha questo obiettivo: dimostrare che Gesù tocca il fondo perché dal fondo possano nascere tutta una serie di germogli. Perché dico è un elemento tipico di Marco? Perché gli altri evangelisti hanno un altro messaggio che desiderano sottolineare, quindi magari questo aspetto non lo enfatizzano. Pensate anche solo a Luca, se voi percorrete la passione di Luca, che è il racconto della passione che incontreremo quest'anno durante la liturgia, noterete che il racconto della passione di Luca è costellato da figure positive, una figura positiva dietro l'altra, dalle donne che manifestano la presenza, la vicinanza a Gesù, al buon ladrone, insomma tutta una serie di figure che in qualche modo cercano di sostenere Gesù. Invece nel Vangelo di Marco tutto questo non c'è, ma non c'è per un preciso messaggio. Marco vuole sottolineare che Gesù ha abbracciato ogni esperienza umana perché nessuno possa dirsi solo. Ecco, con questo interrogativo terminiamo la nostra riflessione, questo momento di condivisione insieme. Ringrazio quanti hanno arricchito con le loro domande la nostra esposizione, in modo particolare Francesco da Bari, il nostro Gianni che ci ha fatto riflettere su Giuda, Vincenzo da Napoli, Salvatore della Sicilia e la Francesca da Genova. A tutti voi davvero grazie, perché la parola di Dio si arricchisce nella misura in cui la spezziamo insieme, e questo dà anche a me modo di approfondire quello che dico e di imparare da ciascuno di voi. Colgo l'occasione per non solo darvi appuntamento al mese prossimo, ma per augurare a ciascuno di voi una settimana santa, la prossima vissuta con intensità, e soprattutto una Pasqua che possa lasciare un segno di risurrezione dentro il cuore di ciascuno. Portiamoci davanti al Signore l'un l'altro e camminiamo con Lui. Un caro augurio a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.